Capitolo 58. Speranze rinvigorite e prospettive ravvivate. Cara, se quest'oggi potete scendere a cena senza affaticarvi, vedrete gli ospiti uno a uno man mano che si presenteranno invece di dover incontrare una folla di sconosciuti. Ci sarà anche Hollingford, spero lo troverete gradevole. Così quel giorno Molly fece la sua comparsa a cena e imparò a conoscere almeno di vista alcuni dei più illustri ospiti delle torri. L'indomani era giovedì, il giorno delle nozze di Cinzia, e comunque fosse il tempo a Londra, in campagna fu bello e luminoso. Scendendo per la tarda colazione, Molly trovò molte lettere da parte dei suoi familiari. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, ella recuperava le forze e la salute, ed era restia a continuare più del necessario con le sue abitudini da malata. Aveva un aspetto così migliorato che Sir Charles lo fece notare Lady Harriet, e molti dei visitatori parlarono di lei quella mattina, definendola una ragazza molto graziosa, leggiadra ed elegante. Questo avvenne il giovedì. Il venerdì, come Lady Harriet le aveva preannunciato, ci si attendeva l'arrivo di alcuni ospiti che abitavano nel vicinato e che si sarebbero trattenuti fino alla domenica. Ma ella non aveva menzionato i loro nomi, e quando Molly scese in salotto prima di cena, sobbalzò quasi nello scorgere Roger Hamley al centro di un gruppo di gentiluomini che conversavano tutti insieme animatamente facendo del giovane. Così sembrò lei l'oggetto della loro attenzione. Parlando, egli balbettò, non colse il significato esatto della domanda che gli era stata posta. Rispose piuttosto frettolosamente e si fece strada verso il ponte dove Molly stava seduta, un po' dietro Lady Harriet. Roger aveva saputo che la ragazza era in visita alle torri, ma fu sorpreso quasi quanto lei per quella comparsa inaspettata, perché da quando era tornato dall'Africa l'aveva vista solo una o due volte e in quelle occasioni lei era malata. Ora, con quel bell'abito da sera, i capelli splendidamente acconciati, la carnagione delicata, un po' più rosea per la timidezza, eppure con i movimenti e i modi di fare che esprimevano agio e tranquillità, Roger quasi non la riconobbe, benché vedesse di chi si trattava. Iniziò a sentire quella ammirata deferenza che molti giovanotti provano conversando con una ragazza molto bella, una sorta di desiderio di ottenere la sua buona opinione, in un modo che era molto differente dalla vecchia, familiare amichevolezza. Provò fastidio quando Sir Charles, a cui la giovane era affidata, si avvicinò per accompagnare la cena. Roger non riuscì a comprendere perfettamente il sorriso di complicità che i due si scambiarono, dato che entrambi erano a conoscenza del piano di Lady Harriet di proteggere Molly dalla necessità di parlare e di comportarsi come desiderava lei, non solo come desideravano gli altri. Egli si ritrovò a interrogarsi e a fissarli di tanto in tanto nel corso della cena. Di nuovo quella sera andò a cercarla e la trovò di nuovo, impegnata con uno dei giovani ospiti della casa, che avevano goduto del vantaggio di 2 giorni di interessi condivisi e di confidenza con gli avvenimenti quotidiani, le battute e le cure della cerchia familiare. Molly non poteva fare a meno di desiderare di interrompere tutte quelle frivole chiacchiere per far spazio a Roger. Aveva molto da domandargli riguardo a tutto ciò che accadeva a Hamley Hall. Egli era ed era stato un estraneo per loro negli ultimi 2 mesi e anche di più. Ma benché l'uno volesse parlare all'altra e viceversa, più che a chiunque altro nella stanza, avvenne che tutto sembrò cospirare per impedirlo. Lord Hollingford trascinò Roger in un gruppo di signori di mezza età. Gli fu richiesto di dare la sua opinione in merito a un certo argomento scientifico. Mister Ernulfus Watson, il giovanotto menzionato in precedenza, rimase accanto a Molly, perché era la signorina più bella della sala e quasi la intontì con il suo incessante flusso di chiacchiere argute. Alla fine, ella apparve così stanca e pallida che la sempre attenta Lady Harriet spedì Sir Charles a soccorrerla e dopo qualche parola a Lady Harriet, Roger vide che Molly lasciava la stanza. E da un paio di frasi, tra Lady Harriet e il cugino inoltre, egli comprese che la ragazza era andata a coricarsi per la notte. Quelle frasi potevano prestarsi a una diversa interpretazione rispetto a quella lampante. Davvero, Charles, considerando che lei è affidata a te, penso che avresti potuto salvarla da tutto quel blaterare di Mr. Watson. Io riesco malapena a sopportarlo quando sono al massimo della forma. Perché Molly era affidata a Sir Charles? Perché? Poi Roger si ricordò di molte piccole cose che potevano confermare l'idea che si era messo in testa, così andò a letto perplesso e irritato. Gli sembrava un fidanzamento così assurdo e raffazzonato, se di fidanzamento si trattava. Il sabato furono più fortunati. Ebbero un lungo tête-à-tête nel luogo più in vista della casa, un divano in anticamera dove, dopo una passeggiata, Molly si stava riposando su ordine di Lady Harriet, prima di salire al piano di sopra. Roger passava di là, la vide e le si avvicinò. In piedi davanti a lei, fingendo di giocare con il pesciolino rosso nella grande vasca di marmo lì accanto. «Sono stato molto sfortunato», cominciò. «Volevo avvicinarmi a voi l'altra sera, ma è stato quasi impossibile. Eravate così impegnata a parlare con Mr. Watson finché non è arrivato Sir Charles Morton a portarvi via, con una tale aria di autorità. Lo conoscete da molto?» Ora, questo non era per niente il modo in cui Roger si era prefissato di parlare a Molly di Sir Charles, ma quelle parole gli uscirono suo malgrado. «No, non da molto. Non l'avevo mai incontrato prima di arrivare qui, martedì. Ma Lady Harriet gli ha chiesto di badare a che io non mi stancassi, visto che intendevo scendere da basso. Sapete che non sono stata bene. È un cugino di Lady Harriet e fa tutto ciò che lei gli dice. Oh, non è affascinante. Non credo sia un uomo molto intelligente. Sì, direi di sì, però è così silenzioso che non mi è facile giudicare. Ha un'ottima reputazione nella contea, osservò Roger, ora desideroso di dargli pieno credito. Molly si alzò in piedi. «Devo andare di sopra», disse. «Mi sono seduta qui solo per un paio di minuti perché Lady Harriet me l'ha ordinato». «Fermatevi un altro po', la pregò Roger. Questo è veramente l'angolo più piacevole. La vasca delle ninfee dà l'idea, se non la sensazione di freschezza. E poi non vi vedo da così tanto tempo e devo riferirvi un messaggio di mio padre. È molto arrabbiato con voi». «Arrabbiato con me?» ripeté Molly sorpresa. Sì, ho saputo che eravate venuta qui per cambiare aria e si è offeso perché non siete venuta da noi a Hamley Hall, invece. Ha detto che avreste dovuto ricordare i vecchi amici. Molly prese la cosa molto sul serio e all'inizio non notò il sorriso sul volto del giovane. Oh, mi dispiace tanto, disse, ma raccontategli per favore com'è successo. Lady Harriet è passata a trovarci proprio il giorno in cui era stato deciso che non sarei andata. Stava per aggiungere al matrimonio di Cinzia, ma si fermò all'improvviso e, arrossendo tutta, cambiò la frase. A Londra. E lei ha organizzato tutto in un minuto, ha convinto la mamma e papà e ha fatto di testa sua. Davvero, non c'era modo di opporsi. Penso che dovrete ripetere tutto questo personalmente a mio padre, se volete fare la pace. Perché non venite a Hamley Hall dopo aver lasciato le torri? Passare da una dimora all'altra, come veniva suggerito con tanta calma, in guisa di un corteo reale, non si accordava affatto con la semplicità di Molly abituata a stare a casa propria. Ella rispose: «Mi piacerebbe davvero un giorno, ma prima devo tornare a casa. Avranno bisogno di me più che mai, ora che...» Percepì di nuovo di stare per toccare una nota dolente e si interruppe. Roger era infastidito dal fatto che lei stesse continuamente pensando a cosa lui provasse a proposito del matrimonio di Cinzia. Con intuizione empatica, Molly aveva percepito che il pensiero doveva farlo soffrire e forse sapeva anche che non avrebbe gradito manifestare il proprio dolore. Non ebbe però la presenza di spirito o la pronta arguzia per cambiare discorso. Roger fu irritato da tutto questo, senza quasi sapere perché. Decise di prendere il proverbiale toro per le corna. Fino a che non l'avesse fatto, la sua posizione nei riguardi di Molly sarebbe sempre stata incerta, così come avviene sempre fra due amici, che evitano entrambi un argomento al quale i loro pensieri ricorrono continuamente. «Ah, sì», disse, «naturalmente voi siete doppiamente importanti ora che Miss Kirkpatrick vi ha lasciati. Ho letto delle sue nozze sul Times ieri». Il suo tono di voce era mutato parlando di Cinzia, ma quel nome era stato fatto e fu un passo importante. «Eppure», proseguì Roger, «penso di dover insistere affinché mio padre reclami una vostra breve visita, a maggior ragione perché riesco a vedere un manifesto miglioramento della vostra salute da quando sono arrivato, solo ieri. Per di più, Molly, e ora era il vecchio caro Roger dei giorni passati a parlare. Penso che potreste darci una mano a casa. Ahimè, è timida e imbarazzata da mio padre, e lui non si è mai comportato proprio cortesemente con lei. Eppure io so che si piacerebbero e si apprezzerebbero a vicenda se qualcuno potesse indurli a conoscersi. E sarebbe un tale conforto per me se questa cadesse prima di dover partire. Partire? Ve ne andate di nuovo? Sì, non l'avete sentito. Non ho completato i miei impegni. A settembre partirò di nuovo per 6 mesi. Mi ricordo, ma in qualche modo pensavo. Sembravate esservi ristabilito a Molly Hall con le abitudini di un tempo. Mio padre sembra pensarla così, ma non è probabile che io ne faccia di nuovo la mia casa, e questa è in parte la ragione per cui voglio che mio padre si rassegni al fatto che, ahimè, vivrà insieme a lui. Ah, ecco la comitiva che rientra dalla passeggiata. In ogni caso, vi vedrò ancora. Forse questo pomeriggio riusciremo ad avere un po' di tranquillità, perché devo consultarmi con voi su diverse cose. Dunque, si separarono, e Molly salì al piano di sopra molto felice, con il cuore pieno di calore e soddisfazione. Era così bello che Roger le avesse parlato in quel modo, come un amico. Un tempo ella aveva creduto di non poter mai più rivedere l'illustre celebrità con la barba castana sotto la luce di una volta, quella di un'intimità quasi fraterna, ma ora tutto stava tornando a posto. Quel pomeriggio non vi fu modo di rinnovare le confidenze. Molly partecipò a un decoroso giro in carrozza con due nobili vedove e una zitella, ma fu molto piacevole pensare di poterlo incontrare di nuovo a cena e ancora l'indomani. La domenica sera, mentre tutti sedevano e ciondolavano sul prato prima del pasto, Roger riprese ciò che aveva da dirle riguardo alla posizione della cognata nella casa di suo padre. Il bambino era un legame tra la madre e il nonno, e a causa della gelosia era anche l'oggetto del contendere del dissidio. C'erano numerosi dettagli da riferire affinché Molly potesse capire completamente la difficoltà della situazione da entrambe le parti. Così il giovane e la ragazza si persero in ciò che si stavano dicendo e camminando si allontanarono lungo il viale ombroso. Lady Harriet si staccò da un gruppetto e si avvicinò a Lord Hollingford, che gironzolava un po' in disparte, e infilando il braccio sotto il suo con la familiarità della sorella preferita, gli disse: «Non pensi che il tuo giovanotto modello e la mia prediletta stiano scoprendo le reciproche buone qualità?» L'uomo non aveva osservato ciò che aveva visto lei. «Cosa intendi?» le chiese. Guarda lungo il viale. Chi sono costoro? Mister Hamley e non è Molly Gibson? Non riesco a distinguerla. Se sta facendo partire la tua fantasia in quella direzione, posso dirti che è una totale perdita di tempo. Roger Hamley è un uomo che presto avrà una reputazione europea. Questo è decisamente possibile, ma secondo me non fa alcuna differenza. Molly Gibson è in grado di apprezzare il suo valore. È una brava ragazza di campagna, molto graziosa. Non voglio dire nulla contro di lei, però. Ricorda il ballo di beneficenza, allora, dopo aver danzato con lei, la definisti straordinariamente intelligente. Dopotutto, però, noi siamo come il genio e la fata nelle mille e una notte. Uno rivendica i meriti del principe Caramalzaman, l'altra della principessa Badoura. Hamlin non è un uomo in cerca di una moglie. Come lo sai? So che possiede un patrimonio personale molto limitato e so che la scienza non è una professione remunerativa, se la si può definire una professione. Oh, se è tutto qua, possono accadere un centinaio di cose. Qualcuno può lasciargli una fortuna, oppure questo piccolo fastidioso erede che nessuno vuole potrebbe morire. Zitta, Harriet, questo è l'aspetto peggiore del consentirti di pianificare il futuro a lungo termine. Di sicuro. Tu contempli la morte di qualcuno e fai assegnamento sulle eventualità come circostanze decisive. Come se gli avvocati non facessero continuamente qualcosa di simile. Lascerò fare a coloro per cui è necessario. Non mi piace combinare matrimoni e tantomeno desiderare la morte di qualcuno. Sta diventando molto prosaico e noioso, Hollingford. Solo diventando? Sorrise il fratello. Pensavo che mi avessi sempre considerato un tipo tedioso e realistico. Ora, se stai cercando di ricevere un complimento, me ne vado. Ricorda solo la mia profezia, quando il mio oracolo si avvererà. Oppure facciamo una scommessa e chiunque di noi vinca spenderà il denaro per fare un regalo al principe Caramalzaman o alla principessa Badoura, a seconda del caso. Lord Hollingford ricordò le parole della sorella quando il giorno successivo sentì Roger dire a Molly mentre lasciava le torri. Dunque, posso dire a mio padre che verrete a fargli visita la prossima settimana. Non sapete che gioia gli darete. Era stato sul punto di dire ci darete, Ma un certo istinto gli suggerì che era meglio considerare la promessa visita di Molly come rivolta esclusivamente a suo padre. L'indomani Molly tornò a casa. Era meravigliata di se stessa per quanto le dispiacque lasciare le torri e trovò difficile, se non impossibile, riconciliare la nuova opinione con l'idea, coltivata per anni, della casa come un luogo dove soffrire tutte le torture infantili di sgomento e di senso di abbandono. La sua salute era migliorata. Si era divertita e il lieto profumo di una speranza nuova e non confessata era avanzato lentamente nella sua vita. Non a caso Mr. Gibson rimase colpito dal suo aspetto più sano e Mrs. Gibson fu impressionata dalla sua cresciuta grazia. Ah, Molly, commentò, è davvero meraviglioso vedere quanto bene possa fare a una ragazza una piccola buona compagnia. Anche una sola settimana condivisa con le persone che si incontrano alle torri è, come qualcuno disse di una signora di cui ho dimenticato il nome, la personificazione della buona educazione. C'è qualcosa di molto diverso in te, un je ne sais quoi, che rivela immediatamente che sei stato in contatto con l'aristocrazia. Nonostante tutte le sue incantevoli qualità, questo è proprio ciò che mancava alla mia cara Cinzia. Naturalmente, Mr. Henderson non la pensa così. È difficile immaginare un innamorato più devoto. Le ha comprato una parure di diamanti. Mi sono sentita obbligata a dirgli che io mi sono sforzata di educarla a un gusto semplice e che lui non doveva corromperla con tutto quel lusso. Però sono stata piuttosto delusa vedendoli partire senza una cameriera personale. È stata l'unica pecca nell'organizzazione, come una macchia sul sole. Cara Cinzia, quando penso a lei, ti assicuro, Molly, che prego ogni notte affinché tu possa trovare un marito simile. E in tutto questo tempo ancora non mi hai detto chi hai incontrato alle torri. Molly fece un elenco di nomi. Quello di Roger Hamley venne per ultimo. Parola mia, il giovanotto sta facendo strada. Gli Hamley sono una famiglia molto più antica dei Kemnor, puntualizzò Molly, tutta rossa. No, Molly, non fare la democratica. Il rango fa molta differenza. È già abbastanza avere tuo padre con tendenze democratiche. Ma non mettiamoci a litigare. Ora che siamo rimaste sole, dobbiamo diventare intime amiche e spero che così sarà. Roger Hamley non ha detto molto di quel disgraziato piccolo Osborne Hamley, suppongo. Al contrario, mi ha raccontato che lo Squire se n'è innamorato e anche lui ne sembra molto orgoglioso. Immaginavo che lo Squire dovesse essere molto infatuato di qualcosa. Direi che ci pensa la madre francese, insomma. Quasi non si è ricordato di te per un mese o più. E prima tu eri tutto per lui. Erano passate circa 6 settimane da quando il fidanzamento di Cinzia era stato reso pubblico e questo poteva avere qualcosa a che fare con la sparizione dello Squire, pensò Molly. Invece ribatté. Lo Squire mi ha invitato ad andare a stare lì la prossima settimana, se voi non avete nulla da obiettare, mamma. Pare che abbiano bisogno di qualcuno che faccia compagnia a Mrs. Osborne Hamley, che non è molto in forze. Non so quasi cosa rispondere. Non mi va che ti accompagna una francese di dubbie origini e non posso sopportare il pensiero di perdere la mia bambina, la mia unica figlia ormai. Ho invitato Helen Kirkpatrick, ma per un po' non potrà venire. E poi faremo dei cambiamenti in casa. Papà ha consentito a farmi costruire un'altra stanza almeno, perché Cinzia e Mr. Henderson ovviamente verranno a trovarci. Mi aspetto che riceveremo molti visitatori e la tua stanza sarà un ripostiglio perfetto. E poi Maria vuole una settimana di vacanza. Io sono sempre restia a ostacolare il piacere delle persone, debolmente restia, credo. Ma di certo sarebbe molto opportuno averti per qualche giorno fuori casa, così per una volta rinuncerò al desiderio della tua compagnia e perorerò la tua causa con papà. Le signorine Browning passarono a salutare ad ascoltare la doppia infornata di notizie. Mrs. Goodenough era andata a trovarle il giorno stesso in cui le due sorelle erano tornate dal soggiorno a casa di Miss Hornblower per raccontare loro l'incredibile evento della visita di moglie alle torri, che lei non era rientrata la sera, ma aveva dormito lì e si era trattenuta 2 o 3 giorni, proprio come se fosse stata una giovane signora di rango. Così le signorine Browning vennero a sentire da Mrs. Gibson i particolari della cerimonia e contemporaneamente la storia della visita di moglie alle torri. Ma Mrs. Gibson non gradiva questo interesse non esclusivo e aveva cominciato a provare un po' della sua vecchia gelosia per la confidenza che Molly aveva con la famiglia delle Torri. Ora Molly, Raccontaci come ti sei comportata tra quelle persone importanti. Non devi montarti la testa se ti hanno prestato riguardo. Ricorda che l'hanno fatto solo per rispetto nei confronti del tuo buon padre. Molly, credo, è perfettamente consapevole, interloquì Mrs. Gibson con il suo tono più morbido e languido, che il privilegio di essere stata ospite in una simile dimora è dovuto al gentile desiderio di Lady Kemnor di farmi star tranquilla nei giorni del matrimonio di Cinzia. Non appena io sono tornata, è rincasata anche Molly. In effetti non avrei ritenuto corretto permetterle di approfittare della loro cortesia più di quanto non fosse strettamente necessario. Tutto ciò metteva Molly fortemente a disagio, benché ella sapesse perfettamente quanto quell'affermazione fosse inaccurata. Bene, ma Molly, riprese Miss Browning. Non mi importa se ci sei andata in virtù dei tuoi meriti o di quelli onorevoli di tuo padre o di quelli di Mrs. Gibson, insomma, raccontaci cosa hai fatto mentre eri lì. Così Molly iniziò un resoconto di ciò che avevano detto e fatto, che avrebbe potuto rendere molto più entusiasmante per Miss Browning e Miss Phoebe se non avesse saputo che la matrigna era lì ad ascoltare con intento critico. Dovette riferire ogni cosa quasi furtivamente, che è il modo migliore di rovinare una narrazione. Per di più, doveva subire le continue correzioni di Mrs. Gibson a proposito di brevi affermazioni che lei sapeva corrispondere al vero, ma ciò che la irritò più di tutto fu il discorso finale di Mrs. Gibson, pronunciato prima che le signorine Browning andassero via. Dopo questa visita, Molly ha preso abitudini erranti, a cui dà davvero moltissima importanza, come se nessuno oltre a lei fosse mai stato in una grande casa. La prossima settimana andrà in visita a Hamley Hall e, in effetti, sta diventando una persona dissoluta. Eppure, con Mrs. Goodenough, che si presentò subito dopo in quel giro di visite e di congratulazioni, il tono di Mrs. Gibson fu completamente diverso. Fra le due era sempre esistito un tacito antagonismo e la conversazione ora suonò così. Mrs. Goodenough esordì. Bene, Mrs. Gibson, immagino di dovervi fare gli auguri per il matrimonio di Cinzia. Bisognerebbe fare le condoglianze ad alcune madri per il fatto che perdono le loro figlie, ma mi pare che voi non facciate parte di quella categoria. Ora, non essendo proprio sicura di quale categoria di madri fosse quella a cui era assegnato maggior credito, Mrs. Gibson trovò un po' difficile articolare la propria replica. Cara Cinzia, disse, non si può che gioire della sua felicità. Eppure, e terminò la frase con un sospiro. Sì, era una ragazza che avrebbe sempre avuto dei corteggiatori. Infatti, a dire la verità, era la creatura più bella che abbia mai visto in vita mia. E a maggior ragione aveva bisogno di una guida accorta. Di certo io, da parte mia, sono felicissima che sia finita così bene. Si dice che Mr. Henderson possiede una notevole fortuna personale, ben oltre a quanto guadagna con la legge. Non c'è da temere, la mia Cinzia avrà tutto ciò che il mondo può offrire, dichiarò Mrs. Gibson con dignità. Bene, bene. È sempre stata una mia prediletta e come diceva mia nipote qui, infatti era accompagnata da una giovane signorina che guardava avidamente alla prospettiva di un pezzo di torta nuziale, io non sono mai stata una di quelle che la denigravano chiamandola civetta o gatta morta. Sono contenta di sapere che sia così benestante. E ora, immagino, rivolgerete la vostra attenzione a far qualcosa per la qui presente Miss Molly. Se con questo intendete dire che farò qualcosa che potrà, affrettando il suo matrimonio, privarmi della compagnia di una ragazza che per me è come una figlia, vi sbagliate di grosso, Mrs. Goodenough, e vi prego di ricordare che io sono l'ultima persona al mondo che si metta a combinare matrimoni. Cinzia ha conosciuto Mr. Henderson a casa di suo zio, a Londra. Sì? Pensavo che sua cugina, molto spesso malata, avesse bisogno della sua assistenza e che voi insisteste affinché Cinzia si rendesse utile. Non sto dicendo altro che ciò che è giusto da parte di una madre, ma sto solo buttando lì una parola a favore di Miss Molly. Grazie, Mrs. Goodenough, rispose Molly, mezzo arrabbiata e mezzo divertita. Quando vorrò sposarmi, non disturberò la mamma, sarò in allerta per conto mio. Molly sta diventando così popolare, non so proprio come faremo a trattenerla con noi, lamentò Mrs. Gibson. Sento molto la sua mancanza, ma come ho detto a Mr. Gibson, lasciamo che i giovani provino il cambiamento. e vedano un po' del mondo finché sono giovani. È stato un gran privilegio per lei soggiornare a lettori in compagnia di tanta gente intelligente e distinta. Posso già notare una differenza nella sua conversazione, una certa elevazione nella scelta degli argomenti. E ora sta per andare a Hamley Hall. Vi posso assicurare che mi sento una madre proprio orgogliosa quando vedo quanto sia ricercata. E l'altra mia figlia, Cinzia, scrive certe lettere da Parigi. Le cose sono decisamente cambiate dai miei tempi, commentò Mrs. Goodenough, perciò forse io non sono adatta a giudicare. Quando mi sposai la prima volta, lui e io ci recammo a casa di suo padre in diligenza, una questione di una ventina di miglia al massimo, e consumammo la nostra ottima cena tra i suoi amici e familiari. Le mie seconde nozze ebbero luogo quando conoscevo meglio il mio ruolo di sposa, così pensai che o quella volta o mai più avrei visto Londra. Ma ad andare così lontano a spendere soldi fu giudicato una persona molto stravagante, anche se Harry mi aveva lasciata piuttosto ricca. Ora invece i giovani vanno a Parigi e non pensano alle spese, ed è già tanto se uno spreco così ostinato non li faccia precipitare in miseria e povertà prima che muoiano. Però sarò grata se si farà qualcosa per le opportunità di Miss Molly, come ho detto poc'anzi. Certo, non è proprio ciò che avrei gradito per la mia Bessie. Ma i tempi sono cambiati, come ho appena detto. Capitolo 59. Molly Gibson a Hamley Hall. Per il momento il discorso si concluse lì. Furono portati il vino e la torta nuziale e fu dovere di Molly servirli. Però le ultime parole di Mrs. Goodenough continuavano a risuonarle nelle orecchie e lei tentò di interpretarle per la propria soddisfazione in tutti i modi possibili eccetto quello più naturale. Però questo era destinato a essere confermato. Infatti, immediatamente dopo che Mrs. Goodenough si fu congedata, Mrs. Gibson volle che Molly spostasse il vassoio su un tavolo vicino alla finestra d'angolo aperta, dove il tutto potesse essere tenuto a disposizione per i prossimi visitatori. Sotto quella finestra passava il vialetto che conduceva dalla porta d'ingresso alla strada. Molly udì Mrs. Goodenough dire alla nipote: quella Mrs. Gibson è astuta. C'è Roger Hamley che potrebbe anche ottenere la tenuta di Hamley Hall. Lei manda Molly in visita. E poi non si sentì più nulla. Molly avrebbe potuto scoppiare in lacrime, improvvisamente, chiaramente consapevole di ciò che Mrs. Goodenough aveva sottinteso, il senso di indecorosità di una visita di Molly a Hamley Hall mentre Roger era a casa. Di certo Mrs. Goodenough era una donna ordinaria, poco elegante. Mrs. Gibson non sembrò neppure aver colto l'allusione. Mr. Gibson riteneva assolutamente normale che Molly si recasse a Hamley Hall con tutta semplicità, come aveva fatto in passato. Roger ne aveva parlato in modo così pacifico da dimostrare di non ritenere affatto inappropriata quella visita. Quella visita che fino a quel momento era stata una così lieta aspettativa. Molly sentiva come di non poter parlare a nessuno dell'idea suscitata in lei dalle parole di Mrs. Goodenough. Di non poter essere la prima a suggerirne la sconvenienza, giacché questo presumeva cose il cui solo pensiero la faceva arrossire. Allora ella tentò di consolarsi con il ragionamento. Se era stato sbagliato, sfacciato, indelicato, davvero anche minimamente sconveniente, che sarebbe stato più rapido di suo padre a porre il proprio veto? Ma la logica non aveva effetto dopo che le parole di Mrs. Goodenough avevano messo tale idea in testa a Molly. Più ella chiedeva a questi pensieri di andarsene, più essi rispondevano, come Daniel O'Rourke replicò all'uomo sulla luna quando quest'ultimo gli ordinò di scendere dalla sua falce e prendere la via dello spazio deserto. Più ci chiedi di muoverci, meno ci sposteremo. Si potrebbe sorridere alla descrizione delle afflizioni della ragazza, ma per lei erano problemi reali e molto dolorosi. Tutto ciò che Molly poteva fare era concentrarsi sul caro vecchio Squire e sul suo benessere mentale e fisico, tentare di riparare la frattura che poteva essersi creata tra lui e me e ignorare Roger per quanto possibile. Buon Roger, gentile Roger, caro Roger. Sarebbe stato molto difficile evitarlo nei limiti della buona educazione, ma sarebbe stato giusto così. E una volta in sua compagnia lei avrebbe dovuto comportarsi con la maggior naturalezza possibile, altrimenti egli avrebbe notato una differenza. Ma cosa significava naturalezza? In che misura ella avrebbe dovuto evitarlo? Il giovane se ne sarebbe accorto se lei fosse stata più restia alla compagnia, più parca di parole? Ahimè, la semplicità del loro rapporto era rovinata per sempre. Molly si diede delle regole, decise di dedicarsi allo squire e ahimè, e di dimenticare le sciocche parole di Mrs. Goodenough. Ma la sua perfetta libertà era svanita e con essa parte delle sue attrattive, cioè avrebbe perduto parte delle sue attrattive con degli estranei che non l'avessero mai conosciuta prima. Costoro forse l'avrebbero trovata impettita e goffa e capace di affermare delle cose per poi ritrattarle. Ma la ragazza era così diversa dal solito che Roger se ne avvide immediatamente non appena lei giunse a Hamley Hall. Molly aveva calcolato accuratamente la durata della sua visita. Doveva essere esattamente lo stesso numero di giorni che aveva trascorso alle torri. Temeva che fermarsi di meno a Hamley Hall avrebbe offeso lo squire. Eppure, mentre si avvicinava, come le parvero splendidi quei luoghi nel fulgore del primo autunno. Ed ecco Roger davanti alla porta principale che aspettava il suo arrivo per accoglierla. Poi egli rientrò, apparentemente per chiamare la cognata, che ora avanzò timidamente, vestita a lutto stretto, tenendo il figlio fra le braccia come per proteggere la propria ritrosia. Il bambino però si divincolò, volle essere messo giù e corse verso la carrozza, ansioso di salutare il suo amico, il cocchiere, e di ottenere la promessa di una corsa. Roger, da parte sua, non disse molto. Desiderava che Aimée si sentisse a casa, come una figlia, ma lei era troppo timida per parlare. Ella prese solamente Molly per mano e la condusse nel salotto, dove, come per un improvviso impulso di gratitudine per tutta l'affezionata assistenza che aveva ricevuto durante la propria malattia, abbracciò Molly e la baciò con affetto. Dopodiché le due divennero amiche. Era quasi ora di pranzo e lo squire faceva sempre la sua comparsa a quell'ora, più per il piacere di vedere il nipote che mangiava che spinto dalla fame. Quel giorno Molly si rese conto rapidamente delle condizioni in cui versarono i rapporti familiari. Pensò che anche se alle Torri Roger non le avesse confidato alcunché, lei avrebbe scoperto comunque che suo padre e sua cognata non avevano ancora trovato la chiave per comprendere le reciproche personalità, sebbene oramai vivessero nella stessa casa da diversi mesi. Ahimè, nella sua agitazione sembrava aver dimenticato l'inglese e pareva scrutare con gli occhi gelosi di una madre infelice ogni dettaglio del comportamento dello squire nei confronti di suo figlio. Bisogna ammettere che non si trattava proprio della condotta più saggia. Il bambino sorbiva la birra con evidente piacere e pretendeva di avere ogni cosa che vedeva gli altri gustare. Ahimè, quasi non poteva badare a Molly per l'ansia che nutriva nei riguardi di ciò che il figlio faceva o mangiava, eppure non diceva niente. Roger occupava il lato della tavola opposto a quello a cui sedevano nonno e nipote. Dopoché le prime esigenze del bambino furono soddisfatte, lo squire si rivolse a Molly. Bene, e così puoi venire in visita qui, anche se sei stata tra persone importanti. Credevo che avessi intenzione di evitarci, Miss Molly, quando ho sentito che eri andata alle torri. Non potevi trovare un'altra casa dove stare, mentre tuo padre e tua madre erano via, se non quella di un conte, eh? E mi hanno invitata e ci sono andata, replicò Molly. Ora mi avete invitata voi e sono venuta qui. Pensavo sapessi che qui sei sempre la benvenuta senza aspettare un invito. Insomma, Molly, io ti considero una figlia, più che la qui presente, Madame. Abbassando la voce solo di un po' e forse presumendo che il balbettare del bambino avrebbe coperto il significato delle sue parole. No, non c'è bisogno che mi guardi con tanta pietà. Lei non capisce bene l'inglese. Io penso di sì, obiettò Molly a bassa voce, senza alzare lo sguardo, però per paura di cogliere un'altra immagine dell'improvvisa espressione disperata del colore acceso di Aimée. Si sentì riconoscente come se avesse ricevuto un favore personale quando sentì Roger parlare a Aimée il momento dopo, con teneri accenti di amichevolezza fraterna. E dopo un po' i due erano abbastanza impegnati in un colloquio tu per tu da consentire a Molly e allo squire di continuare a parlare. È un bel ragazzotto robusto, eh? Fece lo squire accarezzando la testolina ricciuta del piccolo Roger. E può fare quattro sbuffi con la pipa del nonno senza sentirsi male, vero? Io faccio più sbuffi, dichiarò il bimbo risoluto. Mamma dice di no. Io faccio. Proprio tipico di lei, mormorò lo squire, questa volta abbassando la voce, come se il bambino facesse male. Dopodiché Molly ritenne importante sviare la conversazione da argomenti di tipo personale e fece in modo che per il resto del pranzo lo squire parlasse dei progetti dei lavori di bonifica. Egli s'offrì di portarla a vederli e lei accettò l'offerta, pensando allo stesso tempo quanto poco sarebbe stato necessario preoccuparsi di ritrovarsi troppo spesso da sola con Roger, che sembrava dedicarsi completamente alla cognata. Quella sera, però, dopo che Aimee era salita per portare a letto il figlio e lo squire era addormentato nella sua poltrona, un improvviso impeto di ricordi le riportò alla mente le parole di Mrs. Goodenough. Si trovava praticamente da sola con Roger, come era stata dozzine di volte in passato, ma ora non poteva fare a meno di assumere un'aria imbarazzata. I suoi occhi non incontravano quelli di lui con l'usuale franchezza. In una pausa della conversazione, ella prese un libro e lo lasciò perplesso e seccato da quel cambiamento nei suoi modi. Andò avanti così per tutta la durata della sua visita. Se a volte Molly era spensierata e si lasciava andare alla solita spontaneità, poco per volta si dominava e diveniva relativamente fredda e riservata. Roger soffriva di tutto questo, soffriva sempre di più ogni giorno che passava ed era ancora più ansioso di scoprirne la ragione. Anche Aimee, nel suo silenzio, notò come Molly cambiasse atteggiamento in presenza di Roger. Un giorno non poteva fare a meno di dirle: «Roger non vi piace? Vi piacerebbe se sapeste quanto è stato buono e colto. Ma questo non significa niente. È per la sua bontà che è amato e ammirato. È molto buono, convenne Molly. Lo conosco da abbastanza tempo da saperlo. Ma non lo trovate simpatico? Di certo non è come il mio povero marito, e conoscevate bene anche lui. Ah, parlatemi ancora di lui. Quando l'avete conosciuto? Quando era viva sua madre?